tante volte si assomigliano più due fratelli che due gemelli. Ci sono dei gemelli che assomigliano poco, non assomigliano tantissimo. Invece ci sono dei fratelli che hanno una somiglianza allucinante, proprio sembrano uguali e non sono gemelli, magari un anno di differenza li confonde. Ma per le volte, cioè, adesso ci assomiglia molto a te con le volte. Chi? Una che lavora in via Luca di Abruzzo. Dai! Sì. È un beccalino, vero? Appa. Comunque si assomiglia un bel a voi. Diciamo che mia sorella era la più carina di casa, quella, la madre, la diciamo. Gaffa, gaffa. Eh già, però se te la guardi bene ci assomiglia molto a voi. Che andato perché? Sono andato sabato. Che cosa c'è andato a fare, a comprare il telefono? No, a fare a prendere una nuova carta. Per fare lo scherzo a me, bastardo. Negativo al massimo. L'ho fatta sabato, successo venerdì, l'ho fatto sabato. Che pecchiette. E comunque, è bella l'aria di famiglia, ci deve essere sempre. E non conosci l'altra, è quella più grande che è sposata. Quella lì si è sposata da poco, E abita a Coso? A Muros. Che appagata. Non so, non chiede. E non la conosci. Quella lì è molto alta, ha proprio l'altezza mia. Ragazza. E boh, non lo so, no. Comunque, dai. Come stavo parlando un attimino qua. Ah, ho detto, parla un bene, mia nipote. Ha un bel parlantino. Niente, mi stavo dicendo una cosa qua. Mi tocca. Non so risponderti perché non so che cosa ti hanno detto. No, è una cosa qua che ho sentito qua fuori che stavano discutendo. Che pacchetto. Comunque, ti ho detto che mi conosci? Sì, l'ho detto. Ti ho detto? Zio Gianni! Si chiama... Mamma mia, non mi viene adesso. Sì. Raccolletto il cartellino, c'è un nome strano. Zaira. Zaira. Zaira. Zaira si chiama. Zaira. Zaira. Ragazzo, Zaira. Sì. Sei in gamba comunque. In gamba sì. Ragazzo. Ma mia sorella era giovane, era bellissima, non bella. La chiamavano Madonnina di soprannome. Eh? La chiamavano Madonnina, mia sorella di soprannome, perché era bella. Scappa. Sei pure anche vista. Sorella, ma tu l'hai vista grande, ce la vedevi da giovane, c'aveva i capelli lunghissimi, gli arrivava la sera a sedere, da quanto erano lunghi, lisci. Quanti anni ha? Mia sorella, c'ha 56 anni. Grazie. Io sono più piccolo, mi ne hai 50. 51. 51, vai. Sono più piccolo. Ci vuole più piccolo. Che picchi. E anche adesso va. Meno male l'hanno scoperto in tempo. aveva la cigarchia. E d'estate gli si spennavano tutte le mani, andava dal dermatologo. Il dottore Sula mi ha mandato al dermatologo, il dermatologo gli ha detto che non era roba di dermatologia, gli ha dato questa pomata, però non li passava, poi l'hanno ricoverata all'urgenza perché gli stava consumando tutti gli organi. Non poteva mangiare il glutine, capito? E ha scoperto un bel ritardo, ti ha rovinato un bel... la pelle, capito? Gli spellavano le mani così, usciva la pelle. E vado dal dottore, l'ha mandato al dermatologo, il dermatologo ha dato creme, pomate, ghiso di terra, non è fatto niente. Poi si è sentita male di corpo, l'ha dovuta ricoverare d'urgenza, perché stava consumando gli organi interi. Beh, giustamente, ma cosa bisognava fare? C'è da minore che non ne avrei combinato, che... Sì. Pina era la, diciamo, la sorella più tirriosa che avevo. Era anche affettuosa, ma allo stesso tempo era tirriosa anche con le altre sorelle. Si faceva rispettare un bel. Ah, ehi, chissà quanto ne hai combinato. Sì, tutti con lui. Ma Elena è la più piccola, quella che viene prima di me. Me l'ho fatto davvero tutti con lui. Prende per i capelli bambucci, li faccio borracci. Ecco, pure io mi divertivo con i cacciavite a tirarmi nell'occhio del bambolotti. Che macabro. Noi li facevo il rosa per i capelli con la macchinetta di mio padre, quella che si usavano prima a mano, ce le prendete per tagliare i capelli. Che cosa mi aggiungeva a voi? No, quello lì c'aveva i capelli lisci a caschetto, un bebellino, era biondo, un bambolone, mi dico, quelli grandi che si mettono, solitamente li mettevano allora nei divani. Io sperimentavo molto con i cacciavitti, un pericolo che... Prendevo quelli delle radio e dei rasoi, quelli che si usavano allora. Ne smontavo i giocattoli, senza posto del motorino, attaccavo la spina. Io invece li toglievo quelli affari che li facevano piangere, i dischetti, mi piacevano, e facevo il giradischi. Anche io ho giocattoli. Vabbè, con cacciavite anche io qualche volta, però non mi ricordo se erano gli occhi o che cosa li facevo, i buchi, ma... Cioè, loro se li tenevano con tutti i riguardi, si ripettinavano, specialmente lei, si ripettinava sempre, c'era il capelli a caschetto biondi biondi, dici, si ripettinava ogni giorno, come che mi figurai a te dove andare quel bambuccio. Un giorno mi è venuto in mente, ho visto mio padre tagliando i capelli, e... Mi è venuto in mente, ho preso la macchinetta, mi sono chiuso nel salone. Era giù fatto un dramma, le mamma, ce l'ha dentro la porta perché si è chiuso dentro. L'ho nascosto sotto al letto per non vederlo, però c'erano i capelli in terra, mi ha sgamato. Ah, mia giusta. Poi va attorno al tavolo, mia madre da una parte e mia sorella dall'altra. Roba ridda, che hanno male il biliardo. E io ero un po' malandrino, C'avevo sempre tiralasti con le cerbottane, sempre... Con le cerbottane avevo inventato una cosa, c'erano quei tappi di plastica, li mettevo lo spillo dall'interno, quando passavano le signorine, pum! Che non ha combinato. Oppure li mettevamo quelle cose che chiamano noccioline americane, quelle marroncine, ce le presi? La canuccia, fa gli argomenti lo biombo, andrà a tirare a sedere. Te fa impressione, pum! Non gli ha zecchiti, bastardo! Ti nascondevamo dietro le macchine, come passavano tu, che te ne ha mitragliata, in tre, in quattro. c'era la scuola, no? La scuola. C'era la scuola vicino a casa e parcheggiavano tutti le moto, allora dovevamo fare finta di fare le gare con le moto e cose, me le mettevamo in moto, lo sai, una volta si trovato la di una giaffa uno che racconta. Tutte le moto in moto mettevamo, brum, brum, brum. Allora mettevamo le moto così senza chiave, senza nulla. Già lo so, già. Anche se l'hanno chiuso, rimettevi la marcia, ma dove cadeva la rima? Qualcuno se la portava pure. No, quello no. Però già ci siamo fatti qualche giro lì, proprio nel coso dove parcheggiava. Allora, un giorno questo qui è sceso, ha preso l'amico mio scappando. Era dato uno scafo ben forte, erano di quelli degli industriali, no? Quelli già grandi. Ha fatto un ciafo, poi già l'ha fatta vedda. Da voi si è tornato a piedi. Ha buccato il tetto di gomme che c'aveva in cui. Avevo anche in fara. Poi ha detto, vedi che ti sgama, che non me la futti nulla, che su ciafo me lo devi pagare. Ha stabilizzato tutta con un cuore, ha buccato il tetto di gomme. Quando è uscito, se si può portare un vacore a prendere, e te non ti invidia, ma non ce lo invidia, perché sta bene di essere a moto, tu ci rendere attorno, come ti dici, cosa va come ti vuoi? E da sopra la tagnara lei, ma non ci siete immaginati? No, eravamo di fronte, Antonio, che ne va. Era combinato un po', benissimo. Ma poi verrà Ghito di fare gribata le risate. Tanto nello carosello che se ci faceva rendere poco. E gare non ha fatto. Le inventava tutte, cazzo. Ci metteva per dire 500 lire attaccate al pavimento con l'attac, cazzo. Questo qui passa, si guarda tutto attorno per vedere se lo vedeva, no? Cosa si inchina, va a prendere e non si va a staccarle. Ma di là non va proprio l'onore, la fortunatura. Si è appigliato, va via una chiave in macchina, ne ha cavato. Ma tutto un credo che mi ha appigliato di prima, bastardo. E ho fuggito. Un'altra volta li metteva, si nascondeva dentro una macchina, aveva messo un chiodo in terra con una lenza grossa. Quando passava la gente, sto passando, la sollevava e gli faceva il ciampano. E vedevi gente, dicevi di braccarecci. Tutte le ventate. Aveva messo una scatola di scarpe una volta. Una scatola di scarpe rovesciata con un bastoncino che la teneva sollevata. Attaccata a questo bastoncino ci aveva messo una lenza. Lui si nascondeva e metteva il mangime per gli uccelli, no? Gli uccellini andavano a mangiare, lui tirava la lenza e richiudeva dentro e pezzicava. Vanificato, quindi gli uccelli quando trovavano da mangiare non li baria vivo. Poi guarda, ne ha fatto tutti i colori questo. Ma potevamo vedere quelle donne che erano tutte impellicciate con il cagnolino e la pelle di volpe attorno al collo o l'ermellino, questa cibonia che si non li poteva vedere. Ora che cosa faceva? Dava un calcio al cane, il cane tirava e la tipa ha preso correndo. Era un poco delinquente, ma cioè, ci faceva crepare delle risate. Il curolo bambino. E da poi diciamo che lì le inventavano tutte, poi il coso della pantana, quando baciavano le macchine chiudevano le pantane interne, ci aveva veramente presi la via di pensa. Allora anche le pantane erano nella miena, erano come quelle della 600 o vecchia. Già lo so già. Quindi c'era questa pantana vecchia, la tiravano. Poi un altro gioco che facevano finta che avevano perso roba in mezzo alla strada, si inchinavano, le macchine si fermavano e loro piano piano andavano tutto quanto attorno, la macchina non poteva far ripartire perché loro erano in mezzo strada su un'ente e cose. E dicono, aspetta un attimino che ho perso roba, che sono delicato. Questi qui dovevano aspettare, no? Poi magari avevano il finestrino aperto. Come quello lì si sposta, quando andava a ripartire, rilanciava il gavetto e se ne scappava. Gli hanno arrivato Burugru, sì, per carità. Quello erano le guardie giurate, quelle in bicicletta, tu non le conosciute, c'era il mantello come Zorro. Tutte le gurone combinava. E allora le patane si zappano, si guadagnano. L'ammierino, là. Via, ma a parte quello lì, Anto. A quella guardia giurata è andato a causare la tutta una cosa da ripi della bicicletta, era andato a fare champagne. Questo qui ha finito il giro, è andato a casa sua, si è preso la moto e si è su giù a cercarlo. E noi eravamo tutti lì, cosa mi chiedo che da guardia giurata? Mi pronti sì, di che arrivi. E gli fa, dopo dimmi dove abiti. E lui là, con tutte e due le vite le ha segnato là, come dire, da una parte all'altra. Non fa lo spiritoso, mentre che lui stava parlando con la guardia giurata, gli altri hanno staccato la candela, gli hanno messo il cappuccio della candela e gli hanno messo la carta. Dopo gli hanno tappato d'oro, ma si è manca bizzarro, era una lambretta. Fatto sta che gli ha detto, ascolti, faccio una cosa, io mi seguo e non mi rompa Eico. E questo qui, molto maleducato, adesso ti faccio arrestare, non so che cosa, portami a casa tu. Va a mettere in moto la moto, che ti ridevi. Fuggendo. Fuggendo! No, gli hanno fatto tutti. Come ti dico, non ti muovi in moto la moto, è caldo. Gli faceva le pelle così, le mosse marameo, così. Organità. E andava a combinare un po' qui. Se c'era il carosello, che vale la ridì. Era un carosello brutto. Dobbiamo augurare chi finisce in esecuzione. Via! Da voi va via una mira, tu. Una cosa allucinante. Qui che con un pallino ha preso l'uccello nella lampada. Va via una mira che, pocaglietti fino a ogni addio ne lampava uno. Beh, ma non l'abbiamo visto. Sì, che l'ho visto, anche da poco. È cacciatore, no? E lui mi usa, cosa, ha fatto tirare il piattello, gli piaceva anche la caccia. Tu pensa che una volta siamo andati nel viale di Santa Maria, visto dove vanno tutti gli storni che cagano tutte le macchine? Io ho avuto la tirata ficcata, ne ha rappato 4 o 5 in pari, ho avuto la tirata ficcata a pallini. E c'era questa guardia venatoria che ci ha perseguitato e gli ha detto dammi quegli uccelli come li vuoi, tutti insieme a uno a uno, dammeli come mi interessa che me li dai, mi ricordi tutti quanti a faccia gappa gappa oh via hanno inventato già. Vedi la volta del piccione che ci hanno perseguitato quelli della ferrovia. Oh via. Chissà cosa abbiamo raggiunto la verga nel biliardo. Siamo scappati nelle ferrovie e ci hanno perseguitato. E ci hanno preso, ci hanno portato in quella stanza dove sono delle fotografie dei pregiudicati. Lui ci aveva il piccione che aveva preso, ce l'aveva sotto la maglia e ogni tanto palpitava perché era ancora vivo. Anzi, entrando dritto. Questa cosa che si muoveva, ma non male non se ne sono accorti, ci hanno preso nome e cognome. Ma com'è, non se ne è mai fatto nulla. Vabbè, lui ha inventato tutto, ha detto cognome e faccio tutto l'altro. Io sempre dovevo mandare i documenti. E eravamo ragazzini, minorenni. Ci avevamo avuto 13 anni, 13, 14 anni, proprio andando un bel in alto. Sono stati fatti. Tu che con questi non fanno. Infatti. lui diceva, siccome dicevamo che il picciolo non li rampava, manco si ammazzava, perché sono duri, no, tu li puoi cudire un gatto e non li vali nulla. Ha pigliato, sai che cosa? Un balluccio di chi si cappucciola. Che doveva tirarsi che dal cappuccio l'abbia da capo in piedi. Già che io devo andare a fare cosa? Dai, ci risentiamo più tardi, se coincide. Perché qua devo andare a fare cose, se no in occhi non esce più. Vai, fai quello che devi fare, intanto sta per arrivare. No, più tardi non lo so, non penso, c'è gente a casa tua. Ma buona, ci sentiamo. Saluta per Paolo, ciao ciao. Secondo me dare attrito a queste cose e invogliare ancora di più, invogliare ancora di più a chi si diverte in quella maniera lì. Evidentemente non ci sono, non ha altri divertimenti. Tutto lì, ok, vediamo un attimino se Gianpaolo c'è. Ci sei Gianpaolo? Negativo, Gianpaolo evidentemente si è accettato, va bene, c'era, che adesso non mi ricordo più, Benito. Dimmi sa. Schiaccia un attimino. Sembra che stai sparando qualcosa in più, o sbaglio? Gianpa. Ecco, No, perché tutti i segnali me li ho memorizzati, quindi ho visto qualche tacchettina in più, ho detto Benito, ha sollevato l'antenna. No, l'antenna l'ho già sollevata da un po', è normale, là, mi sto scaldando. Va bene, di questi periodi va bene, dai, di questi periodi ci vuole un po' una stufettina per poter riscaldare. Va benissimo, ok, cosa volevo dire? Claudio, allora? Tutto a posto, Sandro, tutto a posto. Oggi è lavoro, sono entrato nel pomeriggio, ci siamo un po' messi in sesto, adesso mi sono seduto qua. Fare due chiacchiere se è possibile farle, altrimenti pazienza, altrimenti si spegne tutto e vado a vedermi la TV, non è un problema, tutto qua. Ricordate che c'ho il tom tuo che è ancora attaccato al vetro, ma non ci vediamo, te lo prendi, mi è servito per Cagliari, ultimo giocattolino, io ce l'ho, però l'ho fatto a mio fratello, dovevo andare fuori e non mi ha trovato di vabbè, insomma scendo a Palottolo, ho detto che ci dobbiamo vedere alle feste, ma lo faceva così, non lo tengo in macchina per ogni evenienza, perché mi è servito, sono venuto a quarto, io non sono andato a quarto all'impianto di Serenas, non trovavo la via e quindi mi ha aiutato moltissimo. Va bene, microfono per te Antonio, poi andrai per Capri. Positivo, tutto Roger, e io ho notato che hai venito, ho aumentato il segnale, Ok, va bene, detto questo rilanciamo il mic a Gianni, vai Gianni. Ok, bisogna sentire anche Luca che lo stiamo lasciando in parcheggio, se non parlerà lo so. Tanto per ammazzare anche Luca in frequenza. E quella roba è utile, quanto mi aiuta quella roba lì a me. Guarda, arrivo fino alla porta, arrivo. L'ho comprato per quando andiamo nelle zone di Caglia, di Lontano, e mi è indispensabile. È una spesa bella che ho fatto. Luca, ci sei? Eccomi, scusate, dai. Mi sono andato dal baracchino. Ciao Roberto. Perché te saluto l'hai sentito. E niente, cosa volevo dire? Ma l'Inter cosa ha fatto? Perso? Perché non sto seguendo niente. l'Inter non ha giocato oggi, l'Inter ha giocato il campionato mondiale a club e l'ha vinto, è campione del mondo a club. E basta, l'Inter riprende i primi di gennaio, deve recuperare due partite, una con Napoli e una con la Fiorentina. Del resto il Milan ha perso con la Roma, la Juve stava vincendo, al 93esimo ha pareggiato Chievo, lo Buccio Varia. Era stata seconda, invece c'è terza. Vabbè, pazienza. Qua. Il pallone è quadrato, non è quadrato, perciò un casino. Vabbè, là. Va bene, e anche loro hanno il diritto di riposarsi adesso, sotto il primo natalizio. E va bene, andare avanti, vabbè, riprendi. Sono c'è, partire, riprendi. Positivo, si è assentato un attimo Roberto e va bene, e visto là, e purtroppo per pochi minuti ha pareggiato, mannaggia, andava, va bene, detto questo riprendi Mike Benito. Ehi a me, ma c'è la sigaretta, ve lo dico già da adesso, ho finito la sigaretta, mi sto cadendo perché c'è troppo caldo qua. Troppo caldo, troppo freddo. Anto, oggi è stata una giornata, una domenica sportiva un po' particolare. Tu immaginati che il Napoli stava pareggiando 0-0 col fischio in bocca l'arbitro, è partito di una fascia Cavani, acuto che cammizza e ha vinto 1-0 col fischio in bocca, guarda, era più del 94esimo. Quindi è il Chievo la stessa cosa, stava sempre tirando, alla fine è andata anche lì al 93esimo, quindi pazienza, ma era importante la vittoria per la Juve fuori casa, era importantissima, infatti non abbiamo perso, però il pareggio non ci stava, anche perché la classifica è molto movimentata, la Lazio è una cosa allucinante, ma un culo che non veniva a dirlo. Va bene, dai, allora microfono per Sandro, a te il microfono e poi andrai per Gianni Capri 2. Ok, dai, riprendo io così ne approfitto, che mi sono arrivate delle visite. Va bene, Cla, ascolta, perché siccome in settimana mi servirebbe, non so, adesso martedì, se nel caso, se per te va bene, magari lunedì nel tardo pomeriggio ci faccio un salto. Lunedì è domani? Sì, positivo. Io sono un po' fuori dalla... figurati, mica mi ricordavo che oggi era domenica. Non c'è problema, Sandri, sono a casa io. Domani dovrei uscire all'1:30, pranzo, mi faccio un bel riposino e poi sul litorale, lo sai, sono a casa, non c'è problema. Vieni pure così te lo porto già su, te l'ho lasciato per non prendere il attaccato al vetro, ma che andava già dentro. La macchina di servizio è dentro, la mia è ancora ferma giù a dove ho preso quella di servizio, ho posteggiato la mia, ancora lì ferma lì punti, a casa di un mio responsabile. Va bene, dai, d'accordo, domani ci vediamo allora. Ok, avanti Gianni Capri 2, ti rilancio io il mic allora, dai. E poi vediamo se Sandro deve chiudere, ce lo farà sapere. C'è freddo qua c'è molto molto freddo. Ok, io una volta andavo a questo amico, ho fatto questa roba qua.

io vi saluto a tutti quanti, dai, che c'ho troppo freddo. Ciao Luca, ciao Falchetto, ciao Roberto, e poi c'era rimasto Silvestro, insieme ad Elena Ascolti, stava facendo i spezzoni, Gianni Capirue e a Claudio. Ciao a tutti quanti, dai, correti da parte. Ciao, ciao Benito, avanti Luca. Ciao Beni, alla prossima. Sentiamo, buonanotte. Avanti un altro? Vabbè. Ciao Benito, ci sentiamo alle prossime. Comunque questo di Silvestro l'ho sentito anche io, ma Benito lo passa, non ci sono problemi. Continuate a parlare come se niente fosse, non c'è problema. Ciao Beni, buonasera, ben ascoltato, ci sentiamo, stiamo bene. C'è una persona in ascolto, vuole capire un attimino. Anzi lo saluto cordialmente. Ok, avanti Gianni Capridore, prendi. Gianni, non ti offendere, metti la radio di prima, stai dicendo bene, sei tutto sciatto, c'è un disaccordo allucinante, può darsi che ci sia qualche valvola che non sta spingendo. Sei sceso 9:10 di segnale, poi la radio è pessima, niente radio, cioè la Pazilu cambia il sistema. Ciao Fresa, sempre Gianni. Tutti, Muravera è una buona squadra, infatti è buono il punto. Buono sì, togliere anche. Infatti 10:50, ogni tanto la voce è meditata, parte a contare da solo, va bene. Ok dai, non c'è problema. Sì Gianni, cambia perché non va molto bene quella radio, è un'ottima radio, ce l'ho anch'io, ma è da rivedere. Benito, abbiamo salutato, quindi siamo rimasti nuovamente in tre, aspettiamo, lasciate per quello bianco che è un passaggio là, poi vediamo se Giampaolo vuole inserirsi in mezzo, sempre con le possibilità, e vediamo un pochino avanti, anche lo riprendi. Aia, ma ho lasciato un attimo di bianco per vedere se voleva rientrare, ma mi sa che stava determinando gli spezzoni. Giampaolo, va bene, no? ok, riprendi Luca. Beh, tra un po' andiamo a mangiare. Ma non è sempre la tua fuori, io sono con il gatto. Sono con il gatto, al calduccio. Freddo. Non so, non va. Ia, molto freddo. Luca, stamattina a piedi c'erano meno un grado, quindi ti ha giudito tutto. Ancora siamo nella morsa del freddo, dovremmo aspettare ancora qualche settimana e poi si riprenderà. Uso io, diciamo, vai. Tempo suo. Poi vabbè, lasciamoglielo fare. Che ci vogliamo qua? Che casino. Vabbè. Cosa volevo dire? A tempo buono, quando lo mette qua? Ma a quanto dicono, perlomeno, perché stamattina sul Gazzettino Sardo parlava di questa settimana natalizia ancora, con questa morsa di freddo e sto gelo che arriva dalla Siberia, e poi sotto che ti dà comiscia il giubbotto, perché a 10 c'è la cancarassi e freddo. Speriamo, va, speriamo. Perché devo risalire sul tetto qua a comprare quel cacchio di staffe, non mi fido più, Mi sono calato davanti la pomme di danno, mamma mia, abbi di buona, sì. Devo salire per un po'. Qualcosa devo fare per forza. Dovevo fare e poi non ho fatto niente. Vabbè, ricordami che sistemiamo quel tubo prima. Sistemiamo quel tubo, faccio la macchina a mano di nuovo. La furgonettina, oddio, la macchina van, la 206 HD van, dice, ma qui che lupo, finalmente siamo ricordati che viaggio tutti i giorni, ho bisogno di avere una macchina come Cristiano. Ok, avanti Robè, riprenditela, qualche fine settimana, perché so che tu da lunedì alla fino al mercoledì e giovedì sei impegnato, ti porto un tubo e mi passi il maschio, Robè, così le metto il bullone nuovo. Hai cambiato radio la prima? No, perché? Da quando sei stato la prima volta che ti ho sentito? Sì, stavo usando il 440, adesso sto usando il 430. Ma ha aumentato anche la potenza questo? No, questo c'è la potenza fissa, questo può andare sempre, perché è regolata così per le bande laterali, 50 watt, più di quelli non ne ho watt in M, è regolata così proprio, anche se metti il carrere al massimo da 150 watt, perché poi quando va in banda laterale ha dei picchi di 150, perciò è meglio lasciarla così, capito? Perché è più alto il segnale. È più alto di prima, prima era di 950, adesso è quasi 960. No, ah sì, perché il 440 è a 30 watt, 20 watt, 20 watt, l'ho fatto avvicinare a poco e quindi lo sto tenendo a basse potenze, anche quello lo sto usando in HF, di solito uso il baratino, anzi adesso visto che siamo in locale, comunque passo con Zodiac, dammi più tre, dai, e prendi Anto, fai girare per cappe, vediamo se ha ripreso. È positivo. Capri ha ripreso? Oh, Capri, no, stavo facendo un po' di chiama per segnare, per col nuovo Ames, per ascoltare quel segnale, non niente, lo va bene adesso? Sì, riprova a prendere il segnale, mi sembra che sia più forte di prima il segnale, metti un po'. Il segnale non ho toccato nulla, Robè, questo qui è fisso, come il segnale a quanto sono? 20 con i picchi positivi, 9:20 spaccato il segnale fisso. E anda bene nera, beh allora, nel frattempo, non so se Claudio ha commutato, ciao Luca. Sono veloce commutando, non devo cambiare niente Gianni, sono con le Zodiac 5 watt modulati in questo passaggio, poi mi dirà Roberto se è cambiato qualcosa. Allora il segnale è Claudio, sei quasi 9,50, sei 9,45 e alcuni picchi a 9,50 arrivi con questo. Sono 4 watt, guarda, metti la mano, cioè mettilo più sullo smitter, così a 4 watt e così invece è superiore, cambia. Micchia, se già lo vedo, quasi 9,60 arrivi, 10 punti esserti lì su. Bene, già cambia allora. Ok, avanti Anto. Yeah, positivo. No, Capri stava rilanciando a Luca, sì, vai avanti per Capri 2. Sì, ci sto, mi fa ascoltare, mi sto mettendo una canzone dove sta Claudio, purtroppo sono in fila. Mi fa ascoltare, allora, riprendi Capri. Ok, 2. Anche io devo osservare l'antenna, sto aspettando a mettere il conteggio che devo fare i murales e mi aggiustano la parte che è quella piazza sta lì del muro perché lo picchettano dentro la canopoli che nel murales come si deve, il conteggio va bene proprio dove c'è l'antenna, quindi non tanto più dal vetro, ma appena metto il conteggio vado, compro un palo da 10 metri e ce la ficco lì dentro e poi la ancoriamo, e penso che per migliorare in ricezione più che altro, la voglio fare migliorare in ricezione, perché così non sta lavorando che basta, e sta aspettando, speriamo che faccia vado in vacanza, qualche giornata buona, così le mettiamo, diciamo, subito, subito mano le mettiamo, e niente, così, e un attimo, perché diciamo, cavolo, io vado ad attaccare l'alfaro, la mantengo, ci infilo, come si chiama, il faro, e poi lo metto nell'estate, riprendi. Sì Gianni, mi ascolti lo stesso tu intanto, non c'è problema, io sono col baracchino, col 50-24, col base della Zodiac, che è il tano più 3. Ok, cosa stavo dicendo? Niente, va bene. No, mi hanno fatto una telefonata e sono passato col baracchino, va bene. Questa bufera, ma comunque non accade a nessuna parte con l'antenna, stai tranquillo, appena passa questa bufera di freddo almeno le tegole adesso sono troppo incasinate, e dato che nel frattempo passerò, ti avviso, posso prendere quel tubo e me lo metto in macchina a fine settimana, che Roberto dal lunedì al giovedì è impegnato e c'è l'arrivo del lavoro, a fine settimana passo un attimino, mi faccio passare il maschio e così lo mettiamo al grado suo, leggermente più grosso, e siamo pronti. Se ci dà una mezza mattinata di tempo, non dico che ci debba essere sole, dobbiamo uscire a maniche corte, ma comunque se non piove, che non c'è vento, affrontiamo questo lavoro. Lo dico a Antonio, viene a darci una mano e ci organizziamo, lui vai tranquillo, lo dobbiamo fare, basta, anch'io mi devo sistemare, devo piazzare l'antenna, che sto commutando sempre con la verticale, devo piazzare l'antenna in garage, e quindi anch'io ce l'ho a fare, ma non ci riesce una gara. Avanti Robert, riprendi tu. Ma Luca serve sollevare il palo o a chi serve il palo? Praticamente a Luca il palo gli ho dato io, quello che ho tolto giù da via Pascoli, perché ne avevo due gemelli, praticamente un elemento col piantone dentro. È successo che non so neanche perché, sinceramente non mi sono mai rotti. Mi si è rotto il dado dentro, allora gli ho passato il trapano e gliel'ho tolto già pronto. Però adesso vuole passato il maschio. E messo il dado nuovo, ce l'ho, ci sono tutti e due nuovi, non c'è inossidabile, capito? Sicuramente uno è leggermente più grosso dell'altro, uno da 6 e uno da 8, ma non fa assolutamente niente, anzi, e basta, vabbè, capito? In quello telescopico è di 2,20. A se usi roba in ferro, come ne sempre, metterci un po' di grasso nella filettatura, così domani devi smontare problemi, o se no, come ho fatto io, li salti i buloni e dado in acciaio inossidabile e non è baglia, è finito. Io quando devo scenderla sono sicuro che non ne trovo di ruggine. Roba inossidabile e sei sicuro, costa un po' di più il dado, però almeno è definitiva la storia. Sì, ma mi ha fregato, non so perché, Roberto, io adesso non mi ricordo se questo è il palo che avevo prima, non mi ricordo. È ancora bello zingato, non è vecchio, comunque ne avevo due, non mi ricordo il perché, gli avevo messo un, forse perché ero in fretta, non ne avevo, no, ce li ho in acciaio, ne ho una scatola, noi usiamo tutto a Easy, quindi no, non ho problemi, poi li compro io i dadi, le fascette, le attrezzature, perciò non mi costa niente comprarmi neanche per me una scatoletta di bulloni, ce li ho da 6, da 8, sono già pronti per il palo di Luca, e li metto in acciaio, ma io non mi ricordo cosa è successo, perché ce n'era uno in acciaio e uno no, non mi ricordo, sicuramente non ne avevo, gli ho messo quello, si è arrugginito e quando sono andato a smontare l'antenna, mi si è, fortunatamente era già smontata, il palo era già sfilato. Non mi ricordo sinceramente, passato tanto tempo, non mi ricordo perché si è rotto e perché gli ho messo soprattutto quel lato lì, vabbè, perciò niente, non era passare il maschio, io ce li ho, ma sono quelli piccoli che operiamo noi, invece ci vuole un maschio, sono sì, da 8 passato, anche da 10 lo possiamo passare, non c'è problema, avanti, fa ok. Ma la stessa cosa bisogna sì, e beh, quel lavoro bisogna farlo, sì. Bisogna che lo facciamo, sì, no, riguarda Luca. No, non abbiamo chiamato a mangiare, grazie, le giornate sono buone. C'è qua un colpo di telefono, ci si va, ci si mette a posto tutte le cose, no, senza problema. Io adesso vi devo lasciare che devo andare a caricare, mi stanno chiamando. Se coincida più dopo, se no ritenetevi su tutti super salutati, eh? Sì, Roberto, l'hanno chiamato lo stesso, è dovuto scappare. Ok, Anto, non c'è problema, io non lo so se rientro perché sono ancora un po' stanchino e quindi mi guarderò un po' di TV. Comunque le radio qua sono tutte accese, se sento che c'è gente, altre due chiacchiere le facciamo, altrimenti ritenetevi tutti salutati e se non mi sentite in radio, state tranquilli, che vuol dire che non sono a Sassari, altrimenti se sono a Sassari la radio la accendo sempre io, non c'è problema. Microfono per Capri 2 per i saluti e poi andrai per Luca Capri, così chiudiamo il giro avanti. Ok, perfetto, ciao Roberto, allora buon carica, ciao Antonio, buon carica anche a te. Luca, però prima ti voglio fare un interrogativo. Tirante di collo, io ho comprato dei tiranti di acciaio, vanno bene, l'ho detto Luca. Se ritieni opportuno mettere i tiranti d'acciaio, no, non sono male. Nelle antenne, quelle che usiamo noi, è fattibile il nylon. Il nylon ha meno rotture di scatole, mentre sui tralicci chiaramente ci vuole il tirante d'acciaio, però è sprecato il tirante d'acciaio nelle antenne nostre, non è che hanno questa grande forza per il vento. Flettono abbastanza e quindi si mettono sui tralicci per mantenerli in tira, per far sì che non flettano, perché altrimenti spezza il traliccio, mentre le antenne che abbiamo noi non spezzano. Ok, però va bene, se c'hai nylon usa il nylon, se non ce l'hai, che hai comprato i cavetti d'acciaio, usa i cavetti d'acciaio, non c'è problema già. Non li ho messi là perché mi avevano detto che ti attirava il pulce. No, non comment, l'acciaio non attira nessun fulmine, il ferro che attira il fulmine, non l'acciaio. Comunque, chi te l'ha detto vuol dire che è molto preparato e perciò va bene così. Lasciamo passare questa bufera, se riesco, quando metto nel ponte e me la sbrigo in un attimo, porto il tubo, però me la sbrigo in un attimo a mettersi la terra, perché so come fare, perché il palo lo scendo fino alla piazza, e da che c'è, poi piano piano ci metto a lì, lasciamo, se lo infilo nelle staffe. Ok Luca, riprendi, allora se facciamo quei resini, lo carica tutti, non lo so fare. Io non so poi se riprendo qua, perché anche io domani mi alzo presto e voglio andare a letto, non è che la termocoperta o mi accendo, che sono mezzo preso di influenza. Riprendi Luca. Riprendo io Luca, se avessi allontanato. Ok già, al limite ci sentiamo dopo se coincide, altrimenti ritieniti salutato anche tu e ci aggiorniamo in settimana, non c'è problema. Io qua lascio tutto acceso, vado a cenare anch'io, dai. Buona carica a tutti, e un saluto e un abbraccio a tutti, naturalmente buon fine domenica e cerchiamo di capire quello che abbiamo detto, di non disturbarci uno con l'altro, che non serve a niente farci la guerra. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, giustamente, perché si fa così. Quando non si combacia con le persone, ognuno usa una strada diversa, ma senza disturbare, perché in questo periodo c'è molto bisogno di quattrini, sono assettati di soldi la polizia postale, quindi occhio ai verbali, non andiamo a farci curare da questa gente. Lo dico in generale, anche riferito a me, quindi cerchiamo di capire la situazione, di andare avanti ognuno per la sua strada senza romperci le palle uno con l'altro. Ciao a tutti, buon fine domenica e ci sentiamo ragazzi. A frappè. Ciao, stessa cosa, se ne occupano loro, perciò se c'è qualche problema non ci vuole assolutamente niente a fare un controllo, perciò a voi dentro le poche parole io non...